pensarci. Sei caduta e non ti è più rialzata. Hai lottato, hai cercato, hai combattuto contro tutto quello che andava storto. Sei caduta e con tutte le forze hai provato a rialzarsi per risolvere una situazione che non è stata colpa mia, non è stata colpa tua. Sei caduta in basso e non riesci neanche a piangere un po' come me. Avessi saputo come fare, avresti volato in alto invece di strisciare. Sei caduta in basso e non riesci neanche a piangere un po' come me. Il crimine paga sempre di più, ma tu sei troppo onesta e per questo sei caduta giù. Ma ce l'hai fatta a salvarti. Sei caduta e ti sei dimenticata come si fa. Hai lottato, hai cercato, hai combattuto contro un sistema che ti ha spinto sempre più in fondo. Sei sparita anche se con tutte le forze hai provato a rialzarti. E pensare che questa situazione non è stata colpa tua, non è stata colpa mia. E siamo caduti in basso e non possiamo neanche piangere un po'. Se avessi saputo come fare, avresti volato in alto invece di strisciare. Sei caduta in basso e non riesci neanche a piangere un po' come me. Ne paga sempre di più, ma tu sei troppo onesta e per questo sei caduta giù. E pensare che questa situazione non è stata colpa tua, non è stata colpa mia. Se avessi saputo come fare, avresti volato in alto invece di strisciare. Sei caduta in basso e non riesci neanche a piangere un po' come me. Il crimine paga sempre di più, ma tu sei troppo onesta e per questo sei caduta giù. Se avessi saputo come fare, avresti volato in alto invece di strisciare. Sei caduta in basso e non riesci neanche a piangere un po' come me. Ne paga sempre di più, ma tu sei troppo onesta e per questo sei caduta giù.